известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. 2 weeks ago, Mexico City, a young woman is rushed to the hospital. She goes to the hospital, she doesn't feel well, she's febrile, she feels short of breath. She goes to the hospital in a very short time. Questo personaggio, questo dottore che si chiama Alejandro Macias, sta diventando rapidamente popolare nelle televisioni americane dal momento che è l'ospite che più frequentemente appare con il suo sapere relativo alle epidemie a dare lo stato delle cose relativo ai casi di febbre suina che hanno colpito pesantemente il Messico con una cifra di vittime che ormai si avvicina al centinaio, diverse centinaia di ospedalizzati e con migliaia di persone che si stanno presentando negli ospedali per essere testate a fronte di quella che già anche negli Stati Uniti è stata pochi minuti or sono nel corso di un intervento all'Accademia delle Scienze a Washington, dove di tutti altri argomenti si stava occupando, relativi naturalmente alla grande occasione americana nei confronti del progresso delle scienze. Però Barack Obama, il presidente degli Stati Uniti d'America, ha dovuto necessariamente dedicare un appunto, una nota a ciò che sta accadendo nella cronaca al confine tra Stati Uniti e Messico, e ormai anche con casi, ecco, è appena uscita per esempio una agenzia che parla di 7 nuovi decessi, 7 nuove morti sospette collegabili alla febbre suina. Barack Obama sostiene che tutto ciò, i casi di febbre, sono motivi di preoccupazione ma non di allarme. Di fatto è un'allerta planetario quello che si è in questo weekend poco alla volta messo in moto. Ormai si parla di controlli sanitari agli aeroporti, con per ora diverse procedure, diversi atteggiamenti a seconda delle nazioni. Poco fa ci siamo informati anche per quello che riguarda i nostri aeroporti, c'è stato detto che nei 4 principali aeroporti italiani, dove possono confluire voli che direttamente o magari di secondo scalo provengano da zone interessate dalla epidemia di febbre suina, ovvero California e Messico, in primo luogo sono stati attivati dei presidi sanitari. Fondamentalmente credo si tratti di controllare al flusso di entrata i passeggeri. Magari ci può essere qualcuno che segnala di non sentirsi bene, in questo caso verrebbe sicuramente isolato e analizzato, anche se per adesso le cronache italiane sono rassicuranti, non ci sono casi neanche sospetti, almeno finora, che si possano essere messi in assonanza con tutto ciò. L'emergenza americana, tra l'altro, coglie paradossalmente, no, il Ministero della Sanità a stelle e strisce, quello che per mesi è stato al centro di dibattiti, di assegnazioni, di allestimento dello staff. Ricorderete la prima nomina di Tom Daschle, poi finita malamente per dei problemi legati alla situazione fiscale del candidato, poi il subentro di Janet Napolitano in questo problema specifico in qualità di segretaria della sicurezza nazionale. Qui si parla di epidemia, quindi si parla di un problema sanitario, ma anche di un problema di sicurezza nazionale. Comunque la mobilitazione è in atto, in questi casi c'è sempre una impressione di efficienza piuttosto sensibile da parte degli Stati Uniti d'America. Anche in Canada sono stati segnalati peraltro i primi casi in America, per ora sono circa una ventina in 5 stati diversi. Ne parla in una conferenza stampa Richard Besser, che è il direttore del centro di controllo delle malattie. Dice: l'ultimo caso è stato registrato in, in Ohio. Barack Obama sta monitorando ora per ora lo svolgimento dei fatti, ma tende fin qui a normalizzare la situazione. Ci è venuto in mente naturalmente un, credo come a ciascuno di voi, un paragone con quello che avvenne circa 5-6 anni fa con la SARS, no? Ricorderete bene sia il livello di allarme, di allerta, sia gli annunci, sia le voci incontrollate e poi gli effetti a livello mondiale di quella che all'epoca venne ribattezzata l'influenza aviaria. Abbiamo pensato di fare cosa utile chiamando in causa il nostro amico nonché consulente qui a Jefferson, Saro Capozzoli, il fondatore di IESA, una società di consulenza strategica che agisce in Cina, ma che ci dà anche aiuti, pareri, punti di vista e notizie su ciò che accade più ampiamente in Cina. Quindi in diretta da Shanghai dovrebbe essere in ascolto Saro. Buonasera per te, Saro, come stai? Sì, buonasera, anzi buon pomeriggio per voi. Allora, il mondo questa volta con una freccia che viene dalla parte opposta rispetto a quanto è capitato con la SARS, però sta facendo i conti con un'ansia, diciamo, un po' dello stesso genere, no? Vorrei sapere da te se ce ne sono, prima di tutto, echi, segnali, sintomi anche in Cina, e poi magari qualche tua considerazione rispetto a come venne trattata, se mi passi l'espressione, addirittura addomesticata, no? L'influenza aviaria, che fece molta paura all'epoca, e se possiamo, secondo te, utilizzarla come pietra di paragone per questo nuovo caso. Ma come, diciamo, come esempio è un po' difficile da usare, però ci sono delle cose interessanti da ricordare. In Cina prima di tutto non si sente di alcun parlare di, appunto, di casi, no? Comunque c'è molta attenzione, tant'è vero che oggi la Cina ha bandito l'importazione di carne dal Messico, comunque dalle aree colpite da questo male. Diciamo, non hanno ancora comunque fatto alcun accenno a controlli in frontiera o agli aeroporti, ecco. Anche se qui sono già attrezzati, perché entrando in Cina ci sono lì predisposti ma non utilizzati, si passa da queste porte, diciamo, della misurazione automatica della febbre delle persone e del comunque controlli sanitari. Ecco, quindi la Cina ha imparato molto bene quello che è successo a suo tempo, che è veramente che ha creato, cioè, centinaia di morti, ecco, bisogna ricordare questo. Ecco, Saro, ma quello che vuoi dire in sostanza è che la struttura di controllo e anche di prevenzione cinese messa in piedi per la SARS poi in realtà è rimasta in piedi, almeno in una certa parte. Infatti, andando a Hong Kong, andando nelle frontiere aeroportuali, eccetera, si trovano ancora i sensori che funzionano, non sono lì che dormono, ma funzionano i sensori che misurano a distanza la temperatura corporea. Certo. Quindi è una struttura che è rimasta in piedi, non è che l'hanno smantellata dopo. Infatti si vedono, io un po' sono allenato, mi diverto a contare anche le telecamere che ci sono su in testa, perché ho un po' una fissazione su questo, però ci sono sensori particolari, si parte addirittura, adesso si passa attraverso delle porte che sono tarate per misurare veramente una temperatura, variazione di temperatura rispetto al normale molto basse. Certo. Quindi il sistema è sempre in allerta, anche perché la Cina sa come reagire, ecco, su queste emergenze. Quello, ecco, tra l'altro, Saro, il personaggio che in un certo senso fu a capo della, no, della grande struttura di controllo e di risposta alla SARS è una cinese, una donna cinese che adesso è al vertice della OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sì, è stata riconosciuta come la fautrice di questa vittoria verso la SARS, che è un qualcosa di diverso dall'aviare, in verità. Ecco, l'aviare è un qualcosa di un po' diverso, di più pericoloso, se si potesse trasformare, passare, se passi da, appunto da, dalla, dagli uccelli, i polli, certo, all'uomo, e dall'uomo all'uomo diventa, potrebbe diventare veramente molto pericoloso. Certo. Ecco, la SARS è un virus atipico che ancora tutt'oggi non si riesce a capire da dove sia uscito fuori. Ecco, si parla ancora di promiscuità fra animali e uomo, no? Certo. In certe zone della Cina, come immagino in certe zone del Messico, animali vivono proprio a stretto contatto con i bambini, con le persone, eccetera. Ricordo che il passaggio sono riusciti i cinesi a ricostruire è nato questo problema, cioè è nato da un contadino che è andato a Hong Kong a partecipare ad un matrimonio e si sentiva poco bene, comunque è andato in un albergo, stava al nono piano, no? Poi spiego perché questo è importante, di questo albergo. Sembra che una volta finito il matrimonio, la maggior parte dei partecipanti al matrimonio si sono infettati, molti di loro sono morti. Uh-huh. E addirittura chi era al nono piano di quell'albergo, che quindi pigiava il bottone di quel piano, si sono infettati, e da lì è scaturito tutto, appunto, il problema, no? Ecco, da questo focolaio si è esteso addirittura nel sud-est asiatico, a Singapore, e poi sono arrivati fino a Pechino. Io ricordo, ho vissuto in prima persona che la Cina che è stata resa proprio spazializzata, era impossibile uscire dal proprio quartiere o dalla propria città. Se uscivi fuori dal quartiere, poi venivi, una volta rientrato, dovevi appunto passare la quarantena a casa, non potevi uscire, venivano portati da mangiare a casa, no? E questo fatto su una popolazione di centinaia di milioni di persone coinvolte in quelle zone, no? Ecco, questo ha portato appunto a controllare bene il fenomeno e così a sconfiggerlo. Ecco, loro sono riusciti ad attivare quelle unità, chiamate unità proprio operative latenti, che sono anche presenti nei condomini. Ogni condominio ha una persona che poi, in caso di emergenza, diventa il controllore dell'emergenza e invita tutti a stare a casa o comunque a seguire le indicazioni del governo. Quindi si è messa in attività, io la chiamo queste unità, che sono comunque membri del Partito Comunista, che sono riuscite a far stare a casa le persone, a controllare i movimenti. Così io, quando uscivo di casa, loro sapevano dovevo andare. Con chi entravi in contatto, certo. Sì, e questo è stato, determinante per sconfiggere questa emergenza. Adesso questo probabilmente è qualcosa di diverso, perché è un po' difficile adesso, l'area è molto più, si sta parlando di più paesi, no? Di più. Sì, tra l'altro ci sono questi servizi televisivi americani che stanno andando in onda anche in questo momento su Fox e CNN, che parlano della grande rapidità di diffusione di questa influenza, al tempo stesso però della possibilità, dell'ottimismo espresso da parte dei medici di contenerne, se non altro, gli effetti, che in percentuale, nei casi gravi, per ora per fortuna stanno su numeri molto, molto bassi. Sì. Saro, ti ringrazio, ci risentiremo magari nei prossimi giorni per continuare se sarà il caso, a proporre questo parallelo con l'esperienza cinese, che appunto, come ci ha raccontato Capozzoli, è stata risolta con efficacia, anche con una capacità di disciplinare, no? Di ottenere la cooperazione da parte della cittadinanza, che forse sarebbe in certi casi, nel Messico in particolare, un esempio interessante da riconsiderare. Ci sono anche ascoltatori che ci telefonano per dirci, ci mandano i messaggini per dire che la febbre suina non esiste, che è tutto un gran complotto. Insomma, le notizie mi sembrano piuttosto esplicite, quelli che parlano in televisione mi sembrano medici anche assolutamente attendibili, però altrettanto attendibili sono le notizie che danno la situazione per ora sotto controllo. I'm insomma, ci si ritrova a fare, no, una puntata estremamente globalizzata, se mi passate l'espressione, come quella di oggi di Jefferson. Partiamo sempre dall'osservatorio americano, ma mai come oggi, vedrete anche per i temi che attraversiamo. Poi le cose, no, a rapide onde si spargono per il pianeta come se fosse davvero piccolissimo, quindi solleviamoci per ora dall'argomento della febbre suina in attesa di aggiornamenti, speriamo i più positivi e rassicuranti possibili. Passiamo a un altro argomento globale che si chiama G8 che andrà in scena, come sapete bene, in Italia prossimamente, e con una gestione che Berlusconi ha voluto anche colorare, come dire, di umanità italiana, incentrando il grande evento in Abruzzo. E noi abbiamo posto al centro del nostro quotidiano Express Yourself il vostro parere su, su che cosa voglia dire fare il G8 in Abruzzo. C'è il membro di una Onlus che dice: Onna è diventato un simbolo, è giusto che qui arrivino persone importanti, ma devono mandare altri vigili, altri militari, i nostri vigili servono per recuperare le nostre cose. Insomma, vi abbiamo chiesto che cosa, che lettura date della teatralizzazione, se vogliamo chiamarla così, di questa tragedia. Alla fine porterà almeno in risonanza degli effetti incoraggianti, tangibili alle popolazioni colpite, il mondo dei capi radunato sulle macerie del G8, che considerazioni vi induce a fare? E allora devo dire che, facendo una rapida conta dei pareri, prevale lo scetticismo, il disaccordo di questa iniziativa di spostare il G8 dalla Sardegna all'Aquila. Per esempio Mukeba, che è un nostro affezionato, scrive: la tragedia del terremoto è diventata uno show, passerella compresa, spero che non ci si dimentichi degli sfollati e delle tendopoli, a show terminato. Poi c'è chi addirittura compone delle poesie sul tema. C'è Giampiero che ci dedica un on in forma di haiku, quindi rispolvera le brevi incisive poesie giapponesi. Sentiamo. Orde di politici su pale rotanti invadono nulla tenenti sotto tende agghiaccianti. Nottetempo papa automunito divinamente deambula. Aiuto, l'Abruzzo video trema senza fine. Mi sa che è un po' lungo. È un po' lungo, più lungo di un haiku. Noi lo mettiamo su Facebook e così qualcuno se lo può anche leggere. Vabbè. E rifletterci sopra. Dunque, Claudio dice: è tutta una questione per rubare la scena e avere consensi, vista la tornata elettorale prossima. Solito sospetto sul fatto che sia antico tutta questione di voti. Valentina dice: non scherziamo proprio, servirà solo a far salire Berlusconi al colle. Giampiero dice: il solito geniale Berlusconi ha inventato il turismo sismico. Beh, questa è veramente macabra. Allora c'è Manuel invece che è d'accordo, dice: anche il mondo dell'economia è un cumulo di macerie e poi le zone colpite dal sisma meritano di essere aiutate, qualunque sia il mezzo. Mauro non ci vede nulla di buono, credo che questa decisione sia un altro esempio di come si possono buttare al mare, nel bel mare dell'arcipelago della Maddalena, fa anche dell'ironia Mauro, montagne di soldi. E poi c'è Alessandro, senza pietà, pur di fare campagna elettorale va bene tutto. Agli italiani, almeno a quelli che hanno sentito il desiderio di scrivere al riguardo, l'idea quindi non è piaciuta, nessuno vede un possibile risvolto, pochissimi vedono un possibile risvolto positivo su un'iniziativa del genere. Paolo scrive: Berlusconi è un ottimo comunicatore, sa scegliere tempi e metodi per alimentare la sua immagine, c'è niente da fare, tutto va a vertere sulla figura del primo ministro. Matilde: non credo che sia una buona idea fare il G8 in Abruzzo, innanzitutto non capisco quali certezze di sicurezza si potrebbero dare agli invitati. Beh, quello purtroppo lo vedremo. Puoi pedalare, insomma. In secondo luogo, io non ho ancora capito da dove dovrebbero arrivare i soldi per questa ricostruzione lampo. E beh, questo è un altro discorso. Io chissà perché invece vedo dei gran pullman e delle gran macchine blindate su e giù che per Roma, che non passano notte indietro, che non so perché, ma la vedo tanto così. Dai, chiudiamo. Ecco, c'è Barbara invece che vede positivamente il progetto, l'iniziativa, dice: Berlusconi sta agendo con il terremoto così come ha sempre fatto per i progetti sportivi, imprenditoriali e politici della sua vita, lancia una visione futura positiva e realizzabile, a giudicare dal già fatto non si può dire che i risultati non arrivino. One thing. that you would. That's good. You know what? You wear overalls, the big old broke iron shoes, and you need a haircut, tramp. Woman, you do. Ooh, I love her. Papa, grandmama. Arrivando parecchi messaggi via sms, ricordo 349-238-6666, lo spunto era il G8, sentire i pareri dei nostri ascoltatori attorno all'idea di invitare i potenti del mondo sul dissestato scenario nella difficile cornice dell'Abruzzo. Mi sembra che anche chi ci manda i messaggi la butta fondamentalmente in politica. È difficile riuscire a giudicare l'idea, l'iniziativa nella sua, come dire, natura strutturale, organizzativa, nel concetto che viene offerto. Insomma, la sinistra rosica e il Presidente del Consiglio può aver fatto benissimo da un punto di vista di consenso, oppure può aver fatto il furbo dal punto di vista di chi non lo apprezza, ma l'idea in se stessa resta un po' lì. Solo Achille scrive una cosa interessante, dice: sono abruzzese e credo che il G8 avrebbe senso se si riunissero sotto le tende insieme a noi. Beh, se non altro non so se avrebbe senso, avrebbe un tono epocale, diciamo così, va? Adesso torniamo a parlare degli episodi che vanno sotto l'etichetta di pirateria ventunesimo secolo. Ne abbiamo già parlato a più riprese la settimana scorsa. Ci sono naturalmente molte notizie spuntate nel weekend, non ultima quella francamente piuttosto agghiacciante del fallito assalto alla nave da crociera Melody, una nave con 1500 persone a bordo, un assalto respinto dagli uomini della sicurezza perché, avrebbe dichiarato il leader dei pirati, Mohamed Muse, in una intervista alla France Press, perché poi c'è, sta come dire, sta venendo di prassi, di moda, questa intervista dei pirati che, come fossero gli allenatori della squadra di calcio, alla fine dell'assalto commentano come è andata. In questo caso, come se la trasferta fosse stata infruttuosa, il nostro Mohamed dice: purtroppo per ragioni tecniche non siamo riusciti a prendere la nave. Sapevano bene che la cattura di una imbarcazione così grande avrebbe rappresentato una nuova tappa per la pirateria al largo delle coste somale, ma sfortunatamente loro, l'equipaggio della Melody, hanno utilizzato buone tecniche e non siamo potuti montare a bordo, ha detto Mohamed Muse, dicendo che peraltro non è neanche la prima volta che veniva attaccata una barca di questo genere, una nave da crociera di queste dimensioni. Tra l'altro 134 italiani a bordo, un capitano già ormai dipinto dalle cronache come un abile navigatore e anche dotato di notevole freddezza. O è una storia poi che comunque alla fin fine è piena di contraddizioni, confusioni, letture differenziate, magari non poi in questo caso specifico, ma quando si parla di grandi imbarcazioni che trasportano merci o che trasportano non si sa bene che cosa, gli scenari si complica. Noi abbiamo trovato telefonicamente Emilio Manfredi, che è in diretta con noi da Addis Abeba in Etiopia e che ha firmato sull'Espresso di questa settimana un articolo molto interessante, una intervista intitolata "Così sono diventato pirata" con Hassan, questo è il nome d'occasione dell'intervistato, che racconta come il fenomeno è diventato tale. E allora in corso di intervista Emilio ci parla di qualcosa che mi sembra molto più lontano dalla pirateria di quanto ci racconta invece il pirata Mohamed che avrebbe assaltato la Melody. Ma io prima di tutto voglio salutare Emilio. Buon pomeriggio, Emilio. Buon pomeriggio a tutti voi. Ecco, se hai sentito la breve introduzione che ho fatto, vogliamo riassumerla dicendo che forse ormai esistono diversi tipi di pirateria e che bisogna cominciare a fare una specie di geografia interna al fenomeno, può essere? Sicuramente i tipi di pirateria sono diversi, ma la radice di tutto e la cosa importante che viene sempre meno messa in evidenza è che il problema non sta in mare. Il problema della pirateria, di questa nuova, di questi nuovi bucanieri del terzo millennio, si trova tutto sulla terraferma e sta tutto nel problema della Somalia, che è un paese che da oramai 20 anni non trova pace, non ha neanche un minimo di viabilità politica e una capacità di riportare in pace, di restituire le condizioni di vita minime alla popolazione. Una terra di oggetto, come sottolinei tu nel tuo articolo, tu e il tuo intervistato, di uno sfruttamento praticamente a 360 gradi di ogni ordine possibile, dalla pesca che è stata letteralmente sfilata di mano ai pescatori locali, fino alla questione dei rifiuti tossici che sembra avere molto a che fare con queste navi che incrociano da quelle parti. Ma vedendola dal tuo osservatorio ravvicinato, è una situazione che da qualche parte uno sbocco lo lascia intravedere, o è una specie di situazione con la quale dovremo imparare a convivere, no? Come nei film post-catastrofisti? Ma fino a che questa situazione rimarrà quella che abbiamo in questo momento, in Somalia e nell'incapacità della parte della comunità internazionale di proporre una soluzione che abbia un senso e porti a una reale pacificazione sul terreno, io credo che qualunque tecnica di difesa delle navi dai pirati sia soltanto una tecnica palliativa, non porta assolutamente da nessuna parte. Finché le condizioni essenziali della vita in Somalia sono queste, secondo me non siamo di fronte a una soluzione. Si è mosso qualcosa che tu sappia dopo questi attacchi, dopo che queste navi sono state sequestrate, per, appunto, come stai suggerendo, risolvere il problema alla radice, o per ora è questione di riscatti e si resta fermi? No, siamo una questione di riscatti, oppure che quello che di solito succede, cioè gli armatori perdono molto ad avere grosse navi ferme per mesi, insomma all'ancora, controllate e sequestrate dai pirati somali, quindi alla fine cercano di trattare sul prezzo, diventa una questione economica. L'importante è trovare un accordo che sia più o meno conveniente per tutte le parti, e poi la nave viene liberata e si aspetta che ci sia un nuovo attacco. Nel frattempo, qualche giorno fa a Bruxelles c'è stata una grande conferenza per portare ad una pacificazione del paese, c'erano Ban Ki-moon, Solana e il nuovo presidente somalo Shaq Sharif, che fino a 2 anni fa era visto come un personaggio quasi demoniaco, perché era capo della coalizione di islamisti che aveva preso il controllo della Somalia, nolenti le potenze internazionali, e sono stati stanziati per il prossimo anno circa 260 milioni di dollari perché questo governo pacifichi tutto il paese, quindi vada anche a confrontarsi e ad affrontare la situazione della pirateria sulle coste e quindi in mare. Il problema è che questo governo in questo momento controlla 2 o 3 quartieri della capitale. Certo. Nella capitale non si fanno attacchi, dalla capitale non partono attacchi di pirateria, e dunque questi soldi, se l'intenzione era quella di trovare una soluzione somala al problema della pirateria, possiamo già dire che sono soldi spesi assolutamente male. Ecco Emilio, c'è un ascoltatore che ha reagito istantaneamente con un sms a quanto stiamo raccontando. Si chiama Simo, il nostro affezionato ascoltatore, ci dice: in Somalia stavano peggio quando avevano un governo, fate qualche ricerca economica. Il governo somalo in esilio è null'altro che il gruppo di quelli che l'ONU chiamava i signori della guerra e che ora hanno anche l'appoggio dell'Etiopia. Confermi questa ipotesi o no? In qualche misura sì, è vero che quello che dicevo prima, questi governi, ci sono state più di 10 conferenze di pace negli ultimi 20 anni in Somalia. Da queste, certo. 13 conferenze di pace non è venuto fuori assolutamente nulla. Ogni tanto si dà il potere ad un ex signore della guerra, come era il presidente del governo di transizione somalo fino a pochi mesi fa, Abdullah Yusuf, un noto signore della guerra, poi presidente del Puntland, che è l'area da cui ora partono gli attacchi, poi presidente di un governo che non è mai esistito. Ora si dà il potere a un ex capo islamico diventato da radicale a passato da radicale a moderato, e però il governo sul territorio non controlla nulla, quindi questi soldi che la comunità internazionale investe come minimo sono molto mal investiti, come minimo non vanno certo. a confrontarsi con quella che è la realtà nelle mani giuste sul terreno e con quello che la reale incapacità poi di questi governi di affrontare i problemi della popolazione. Emilio, ho quasi finito il tempo, ma rapidamente, nel tuo articolo ricorre anche il nome di Ilaria Alpi e più in genere la questione, insomma, delle coste della Somalia come di una cloaca dei paesi ricchi per lo scarico di rifiuti tossici o addirittura nucleari dalle parti appunto della Somalia, una versione, una lettura dei fatti che continua a essere, almeno da queste parti, assai nebulosa, converrebbe approfondire assai, ma è molto difficile, vero? Ma converrebbe approfondire assai e non sarebbe molto difficile, basterebbe volerlo. Appunto, la collega che ci ha lasciato la vita a Mogadiscio lo aveva fatto e alcuni personaggi, alcuni altri esponenti delle Nazioni Unite avevano affrontato la questione dichiarando che in Somalia sono anni che si gettano rifiuti di ogni genere, soprattutto rifiuti difficilmente stoccabili in maniera ecologica nei nostri paesi, difficilmente, in maniera molto cara, mentre in Somalia è molto economico. Appunto, con $2.50 si riesce a eliminare una tonnellata di rifiuti tossici o radioattivi in Somalia, ce ne vorrebbero $250 per farlo in maniera ecologica in Europa. Per le compagnie è un grosso risparmio e finché non ci sarà una volontà politica di venire a capo di quello che in realtà succede nei mari somali, non andremo molto lontano. Va bene, ti ringraziamo. Hai qualche notizia recente relativa alla Buccaneer, a questa nave che le cui sorti continuano a essere anche queste assai confuse? Si sa qualcosa dell'ultima ora per i tuoi canali? L'ultima ora è sempre la stessa, che c'è qualcuno che dice che queste chiatte certo. portassero rifiuti nucleari e l'armatore smentisce. L'armatore, a quanto pare, non è proprio uno stinco di santo, però non possiamo dirlo perché è stato la trattativa avviene in maniera riservata. Credo che, come minimo, l'ultimatum dato sulle vite dei marinai non sia così stretto e non sia così rigoroso come hanno voluto farci credere qualche giorno fa, quindi abbiamo almeno la speranza che queste persone non siano a rischio della vita. Torniamo a casa vive. Grazie Emilio Manfredi e complimenti per la sua inchiesta. 360 gradi news dai punti sensibili del pianeta. E appunto abbiamo fatto una riapertura di settimana a Jefferson, rimbalzando davvero dai punti, da un punto sensibile del pianeta all'altro. Con qualche notizia concludiamo, una assai importante, tratta della ristrutturazione General Motors. Sparirà il marchio Pontiac, credo che per alcuni, almeno collezionisti, feticisti o semplicemente amanti delle macchine americane, sia una notizia clamorosa. Restano non in vita. Non c'è la speranza della Fiat per la Pontiac, no. La Pontiac non la prende la non, Fiat. Non no. interessa. Chevrolet, Cadillac e Buick restano in vita, per fortuna, per la sezione auto, GMC per il reparto mezzi pesanti. Gli analisti del settore sottolineano come eliminare un marchio storico come Pontiac indichi che GM, per sopravvivere, sia veramente costretta a sacrifici enormi, quasi insomma lì vicino al confine, no? Della sopravvivenza. Allora, in mezzo a tante notizie anche piuttosto tristi e preoccupanti, ce n'è una brillante, positiva, che viene dalla Cina e da Taiwan, perché ieri di fatto i due paesi, che in realtà forse sarebbero un unico paese diviso da ragioni storiche, insomma Mao e quant'altro, hanno inaugurato, hanno detto i rappresentanti del governo cinese di Taiwan, una nuova era, perché hanno firmato un importante accordo che per esempio permette la possibilità alle imprese finanziarie di investire in uno e nell'altro paese contemporaneamente, cioè di fatto le banche possono aprire, le banche di uno dei due paesi può aprire dire, nel paese non più avversario, non più concorrente, quindi questo dovrebbe favorire ulteriormente gli accordi economici, commerciali, finanziari tra Cina e Taiwan. Nello stesso accordo, tra l'altro, i due paesi hanno deciso anche di intensificare i voli diretti tra le due nazioni, che passano in rapidissimo tempo da 108 a 270 alla settimana, quindi un incremento significativo e importante. Poi i due paesi si impegnano anche a battersi insieme contro il crimine, in particolar modo i reati finanziari, quindi una nuova era davvero che sta cominciando di riconciliazione, di riunione tra Cina e Taiwan, e i due paesi che si erano anche regalati i panda qualche tempo fa. Sempre riguardo a Pontiac, sul settore economico di CNN escono particolari, escono numeri assolutamente impressionanti. Sono 23.000 i posti di lavoro che cadono su questa decisione dei vertici di General Motors, e il 45% della rete di venditori della casa madre perde il proprio mandato, quindi un intervento a dir poco radicale. Tornando alla questione influenza suina, continuano gli aggiornamenti, casi sospetti di influenza in Germania, in Vestfalia, 3 persone, 2 uomini e una donna, sono state poste in isolamento, tutte al rientro da un viaggio dal Messico, e anche in Inghilterra, in una cittadina che si chiama Sale, una donna canadese è stata ricoverata in ospedale a scopo precauzionale, ma non è chiara se fosse stata di recente in Messico. E invece il nostro amico Beniamino Natale, corrispondente dell'ANSA dalla Cina, ci segnala un intervento sul suo blog di Ai Weiwei, 52 anni, artista cinese, forse certo, il più famoso artista cinese certo, nel mondo, non solo in patria, che attraverso il suo blog ha detto parole molto importanti e significative sul terremoto del Sichuan. Si avvicina il 12 maggio, il triste primo anniversario di questo terribile terremoto che fece più di 80.000 morti, e fa un paragone, Ai Weiwei, con l'Italia. Dice: nel caso dell'Italia, in Abruzzo hanno dato tutte le notizie senza problemi, anche quelle sulle polemiche, sulla qualità delle costruzioni, mentre in Cina le notizie che avrebbero potuto portare problemi alle autorità locali e nazionali sono state messe a tacere. Continua la polemica attorno alle notizie non dette, al numero dei morti non ancora certificato, soprattutto i bambini morti nel crollo delle scuole, quindi certo, polemiche e oltre alla commozione che si avvicinano in questo triste avvenimento, in questo triste anniversario del primo anno del terremoto nel Sichuan. Oggi era lunedì, comunque di lunedì va così. Siamo partiti l'aria non è proprio delle migliori, poi insomma si va a migliorare, ci auguriamo tutti. Vi racconteremo appunto queste zone calde del pianeta anche domani qui a Jefferson 2, l'arte della svolta. Stefano Pistolini, Emiliano Enrico in redazione, in regia Valerio Rocchetti a Roma e Fabio Cantadori a Milano. La mail è jefferson2@radio24.it. abbiamo le nostre pagine Facebook, redazione Jefferson 2 per contattarci direttamente, o Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself per partecipare ai nostri focus. Questa puntata è in replica a mezzanotte, oppure sul sito della radio potete trovare il podcast. La diretta è dopo le 4 domani qui su Radio 24. See you.